Papa Sango, vi cordializza e vi saluta con la buona domenica, vi sentivo chiacchierare così sono entrato a salutarvi. Come va ragazzi? Ciao Luca, dai. Luca da Papa Tango ci saluta tutti e due. Ok, dai, io ti rilancio a Gianni K2, così ti manda saluti lui personalmente, e saluto i belli da Forchetto qua da Sierra Sera, adesso ti rilancio a Gianni K2. Avanti Gianni K2 per Luca da Papa Tango, se lo senti. Ci dovrebbe essere qualche cosa che è negativo per me, per quanto ricezione per trasmettere. Sicuramente se avrei avuto qualche, appunto, alcune cose messe a posto, sicuramente mi sarebbe arrivato ancora meglio di segnale, avrei visto appunto il segnale, diciamo, quindi dello speaker. La radio è bassina, però ti capisco, la radio è bassina e ti capisco tranquillamente. Il QRM, insomma, diciamo così, la propagazione si è abbassata, il tempo che sta avvenendo praticamente ha abbassato un po' la ricezione per i segnali che vengono da lontano, però automaticamente ha abbassato anche le modulazioni locali. Comunque ti leggo bene tranquillamente, capisco benissimo, diciamo, il tuo messaggio, la tua modulazione. Ok, cambio Antonio, avanti. È positivo, positivo. D'altronde, per il tempo che si sta mettendo, si riesce a capire bene o male un po' a tutti. Niente, capito, ti avrei ascoltato, rilasciamo il mic a lui, così ti dà la conferma, là, di quello che tu hai detto. Cappava, avanti Gianni. Dobbiamo, insomma, poi discutere alcune cose, non c'è problema. Io stavo dicendo appunto ad Antonio, a Gianni, e stavo così curiosando un pochettino su internet a vedere un pochettino alcune cosettine. Comunque rimango in bianco, la radio accesa, se c'è da comunicare, da fare chiamate tranquillamente. Avanti per te Gianni. Ok, continuato anche qui, rimane qui l'inchiesi. Quando vuoi che vuoi rientrare, siamo qui, rispondiamo. Molto volentieri. Ok, Antonio, tu mi arrivi una schioppettata invece. Ah, dai, sì, beh, non è che già me lo stai dicendo l'altro per dire, no? No, va benissimo. Quasi a 9 sei. È positivo. Vabbè, sembra una stupidaggine già, però mi interessa più la radio, perché quando si parla molte volte si dice Santiago, no? Ma secondo me Santiago è relativo. Lì che si sente la radio bella, poppante, squillante, per me è più che sufficiente. Cosa dici già? Ma però ho sempre detto io, perché diciamo, se noi mettiamo un wattmetro e l'apparecchiatura dà i watt che ne pedale, quindi lì ci siamo. E quindi il segnale Santiago, diciamo, è in proporzione all'impianto d'antenna, al segnale che viene, diciamo, che si riesce a irradiare, capito? Quindi se c'è un buon impianto d'antenna che irradia tutti quanti i fatti che la radio, l'apparecchio dà effettivamente, che sono quelli, vuol dire allora che aumenterà anche un buon segnale. Però la radio è fondamentale, perché se uno non è collegata, diciamo, al fattore del segnale, quindi se uno c'è fatto di radio vuol dire che è proprio lo guarda nulla. Vabbè, quello è vero, basta avere una buona antenna, quello è vero, una buona antenna, un buon apparato e dovrebbe essere tutto positivo, come la penso io Gianni, perché molte volte quando le persone che entrano subito un controllo di Santiago e radio, ma Santiago è relativo, se tu esci bene in radio ti dico ah, stai uscendo bene in radio, non c'è neanche bisogno di Santiago. Ma io tantissimo tempo fa modulavo con gente, con Santiago Zero, però Radio Quadri 5 con Santiago Zero, riusciva a arrivare la radio e il segnale negativo, hai capito? Il segnale è un dato così buono, che se va bene la radio, diciamo, è relativo, la radio c'è, certo, un po', lo deve avere, però diciamo che la radio è importantissima, perché non può arrivare Santiago 9 non c'è radio, quindi capito, vedi la lancetta e poi niente. E vedi, adesso io ti voglio fare un passaggino, adesso con la lanterna che c'ho dentro casa, e mi dovresti dire un po' se senti almeno la radio, guarda lì, adesso provo 2 secondi giusto perché siamo in discorso, ti faccio 2 secondi un passaggio sul mobile con l'antennino della mobile e attaccato lì alla persianetta della finestra di casa, all'interno, guarda ti faccio un passaggio adesso. Attento Capri 2. Capri 2. Ti ascolti, vero? Negativo Antonio, non esci per nulla. Vedi. Sono siccome vabbè c'ho la finestra chiusa, tutto chiuso. Niente. Perché l'antenna della vettura è fatta per la vettura, non è fatta per installarla all'interno dell'appartamento. È molto molto difficile che esca. Cioè, a meno che non si in zona, ecco, non siamo in linea d'aria molto vicini, tutto qua. Niente, no, era una provetta che volevo fare giusto per vedere se riuscivo a arrivare con questo antennino qua della BM ai pressi della tua stazione. Niente, dai, detto questo e come l'ho detto Gianni, avanti. Ok, l'antenna della BM deve avere anche un buon piano di massa, qui stiamo parlando dell'antenna, diciamo, di cui ti ha capito che c'era di aria, hai capito l'altra cosa, invece l'antennino di macchina, diciamo, non è radiale, quello lì è anche proporzionato all'uscita, hai capito, certo, cioè moduli a stanza. antenna radia bene, però ha bisogno di spazi liberi, ovviamente, perché essendo della vettura ha bisogno degli spazi liberi, perché essendo una zona chiusa, già dentro un appartamento, non può radiare bene un'antenna di vettura, ecco, tutto lì il discorso. Se c'hai antenne buone vai dappertutto, perché è così purtroppo. E poi ho scoperto che mettendo una buona antenna si riesce ad andare oltre quello che è dovuto, sia di trasmissione che sia di ricezione, capito? Sempre dalla posizione. sempre la posizione, l'altezza, la zona, perché molte volte, vedi, noi adesso sembra strano, io ho delle zone proprio negative, proprio chiuso, negato al 100%, io posso arrivare fino all'entrata del Cagliari per dire, però se tu mi dici di arrivare a Castelsanta non ci arrivo, Tempio non arrivo, e sembra, vedi, Calangiano ci sono arrivato, perché ho parlato anche l'altro giorno, a Caraggiano e ci sono arrivato, però ci sono tratti già che è proprio negativo. Io riuscivo a modulare con Maresi, con la donna di Briscolone, e anche Caraggiano con una Femaia, modulavo con i Chiesu, con Ossini, Pattara, e tutte quelle zone, però Mores per esempio era più vicino di Chiesu, non riuscivo a coprire, ma Mores non si riusciva a arrivare, per cui era prima di Chiesu, non riuscivo a arrivare. Altri posti sì, diciamo anche a Castelsanto Sordo, quelle zone lì, come Alghero, Alghero negativo e non si riusciva a modulare con Alghero, manco se tu ti allora c'è anche qualche vitamina, però non era sufficiente a modulare, per esempio se arrivo a trovare da queste stazioni di questi amici miei e Alghero si sentiva come stiamo modulando noi, purtroppo era proprio la posizione ed è ricordo che l'antenna riusciva a ricevere e a capitare i segnali di una certa intensità, hai capito? Invece qui Alghero nulla, non si riusciva a sentire, allora quando c'era una macchina andavo alla punta di Ossi e quando la modulavo con Alghero, però non dentro la macchina, la cutia anche era negativo. Sì, infatti dipende sempre dalle postazioni che uno si trova, ci sono sempre state comunque le zone negative, ha trovato voi, però ci sono zone che proprio non si riesce a modulare, o per causa magari del cosiddetto che è in una zona un po' negativa, o per causa mia che sono un po' in una zona negativa, non si riesce ad arrivare dove si dovrebbe arrivare, ecco. Però vedi, molte volte quando si apre la propagazione ci si arriva dappertutto, cioè quello che non riesco a capire io è questo, ma ormai che quando si apre la propagazione si arrivi dappertutto e quando si è a due passi non si arriva a due passi, ecco, e quello è il discorso mio. Con la propagazione, questo fenomeno atmosferico, le onde vengono moltiplicate, anzi vengono moltiplicate, vengono irradiate, diciamo, oltre di come moduliamo adesso, e quindi è quello lì. Per esempio io, se anche non ci arrivavo, però a Santa Maria La Palma, arrivavo anche bene, arrivavo alla finale, e tu mi dirai, ma Santa Maria La Palma è lì, che anche era negativo, non si riusciva ad arrivare anche con gente che c'aveva la stazione, perché ho avuto modo di conoscere in persona, a Maiolino, a Poli di Alghero, ha detto, non arrivi, ha detto già, non arrivi, noi abbiamo degli appartimenti, le apparecchiature che c'avevano anche un buon preamplificatore d'antenna, nulla, solo vuol dire che il segnale lì proprio non riusciva a cadere. Sì, è proprio vero, è proprio così. Ci sono delle zone che non ci si riesce ad arrivare veramente, guarda, è una cosa, è così, purtroppo è così. Nonostante hai una buona antenna, un buon apparato, non c'è Cristo di arrivarci. Adesso per esempio con quell'amico che si modula da lì da Oslo, per esempio Claudio non riesce a sentirlo, io bene o male, poco a poco, pio pio riesco a tenerlo fuori, eppure siamo a pochi metri di distanza uno con l'altro, capito? No, questo è giusto per farti capire come stanno le onde, ecco. Sì, perché un ragno deve mettere a punto il tutto, però all'epoca quando modulava aveva una buona stazione, aveva un'ottima stazione un ragno, e andava, adesso non lo so, diciamo, e vorrà mettere appunto l'antenna, non lo so, tante cose che so che non vanno per io, si ne arrivavo a bomba, cioè allora usciva con tre passi in apparecchio, no, non con un po' di questi passi che sono 105, tre passi dava, hai capito? simpatica. Ebbene sì, è vero, basta che abbia una buona antenna con una buona carica, si riesce ad arrivare dappertutto. E perché si mette un ragazzino, no? C'è da mio zio che abitava, infatti il baracchino è nato per quello, e cioè lui è stato contagiato da un vicino di casa che veniva, facevamo un vento per là, e l'aveva portato lui in estate, questa roba aveva il toccaio, ma che e poi c'era comprato questo mio zio, Dario era piaciuto a me, è stato comprato anche a me poi a casa. Però poi che è venuto fuori di Alghero, non so, adesso un signore che allora ci aveva, non dico molto, qui 55 anni, che non so se sia ancora vivo, è capito, gli auguro di sì. E niente, poi parla a parla, questo era un cervellone, che mi ha messo lì, e perché il mio Dio mi ha detto come fai, io sono a colpo in su, da qui arrivi a Sassari, e si è messo a parlare di armoniche, di tutte questa cosa, quindi c'è una persona magari che era parecchio, l'aveva rintoccato e era stato, l'antenna era stata fatta con tutti gli accorgimenti per segnare che irradiava l'apparato, usciva, diciamo, veniva irradiato tutto dall'antenna, e capito, queste cose belle cose, uno se ne fa tutti questi accorgimenti alla stazioncina radio, che se non c'è l'Alfa Lima e c'è la grande, perché c'è il mio amico che c'è stato in vivo, che lui riprendeva, addirittura riparava in via di San Francesco, per San Verde, ha detto bisogna avere un buon aereo, e aereo lui si riferiva all'antenna. Quando l'antenna è accordata, è tarata, giusta, come si chiama, che vai alla grande. Sì, confermo. È proprio vero. Perché sono sempre del parere che poi il cuore dell'apparato è sempre l'antenna, c'è proprio da lontano. Ti dico una cosa, che era questo metodo di scuola, no? Tu non hai mai modulato perché era tanto dei primi cicli. Io allora studiavo all'Emilia, Florina, e parlavo con questo Palpera sulla Sassari, qui aveva detto ok, 5024, però io andavo alla scuola media a Florina, già ho fatto gli ultimi due anni, la seconda e la terza, lì era stato anche divertente. E niente, no, questo signore qui, la scuola elementare, era dentro l'istituto dove c'era la scuola media, ci vedevamo, io c'ho il maestro, lo vedevamo io alla mia classe media, che era più di sopra, però sapevo minimamente che non finché un giorno, questo di Florina, che non mi ricordo adesso il nome nativo, il figlio di 31, avevano comprato il baracchino, c'è la stazione, c'aveva il foglio 23 canali, la stazione base con la Grand Prix, parlando così a scuola, si sente e si è avvicinato, e perché c'è il baracchino di fuori, e ce l'ho io e c'è tu io, e qui è vero, ce l'ho anche io, e sto da molto, e dice, ho tanto modulo, anche con muro, e chi è? Stava a far pega, se ho un capri 2, è rimasto così, ho un capri 2, pensavo che era un giovanotto che avevo, e poi parlando, questo qui, Antò, era arrivato a Monte Urbino da Sassari di notte, con toccai 5024 senza attaccare niente, che questo di Monte Urbino era meravigliato, e gli ha chiesto il numero di telefono e l'aveva telefonato sequestivamente, e lui usciva con la Grand Prix e il baracchino e l'alimentatore senza attaccare nulla. Questo te lo posso garantire, Antò, perché era una persona che non era né bugiarda, una persona con la testa attaccata al collo e sincera, quindi si può immaginare quando trova lì la canalizzazione che il segnale riesce a passare. Io che non trovo ostacoli, sicuramente Antò arriva a destinazione. Sì, ma è proprio vero quello che stai dicendo. Molte volte, se non hai ostacoli vai dappertutto, è vero, è così. E purtroppo è così, è la logica. Per esempio, in questo momento la stazione mia non sta lavorando ancora. Perché non sta lavorando? Perché Gianni, che siamo di casa di due, non si può venire in testa bene, che bisogna trovare il momento che hai pari a salire e alzare l'antenna, oltre quel come si chiama, 3 metri dal tetto. Ecco, io sono campanello si attiva. Ma siamo qui, se c'è qualcuno che vuole entrare con la nuova sfera, siamo qui. E qua è lui. Luca di Papatango, mi copri? Sono Luca di Papatango, mi copri? Cambio.